Focus Economia. Con Simone Spezia. Sono le 17:07. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. È il 349-238-6666, il numero per intervenire in diretta via SMS. Come sempre, i temi al centro di questa giornata. Innanzitutto vi do un aggiornamento di mercati, perché poi di mercati come sempre parleremo. E vi dico che Milano è l'unica borsa in negativo in Europa e cede circa 1,5% sul FTSE MIB, o poco meno, e un 1,35% sul FTSE Share. Tutte le altre sono in positivo, e in positivo anche Wall Street, con il Dow Jones che guadagna 1%, il Nasdaq l'1,32%, lo Standard & Poor's 500 l'1,01%. Più avanti cercheremo di tracciare un quadro e di comprendere perché anche oggi Milano sia negativa, posto che c'è ancora una volta una brutta performance delle banche, come già ci fate notare via SMS, a partire dalla Popolare di Milano, che però fa caso a sé e ne parleremo più approfonditamente. Cede il 5,20%, ma va giù anche il Monte dei Paschi, che perde il 3,9%, Mediobanca il 4,2%, il Banco Popolare il 3,78%, e ancora una volta pressione su Fiat, meno 2,62% su SPA, quella che produce le auto, e meno 3,19% su Industrial, quella che produce i veicoli industriali. Quindi naturalmente parleremo di questo, faremo come al solito il nostro approfondimento sui mercati, tratteremo poi altri temi nel corso della puntata, a partire dalla vicenda di Standard & Poor's. Che cosa è successo? Che il presidente oggi si è dimesso, ha lasciato il suo posto. Nei giorni scorsi era stata avviata un'inchiesta da parte di una procura americana su Standard & Poor's, proprio su Standard & Poor's, e tutto questo all'indomani della decisione dell'agenzia di rating di tagliare il giudizio sul debito pubblico americano. Ora si sostiene nei comunicati che in realtà, per carità, il presidente appunto di Standard & Poor's, Sharma, avrebbe dovuto lasciare comunque. Era una cosa ampiamente prevista, e però qualche sospetto che una pressione politica da questo lato ci sia stata ovviamente c'è. A questo associeremo un'altra vicenda, la troverete un po' sparsa nelle agenzie, molto poco nei giornali. È la vicenda di un ex vicepresidente di Moody's che ha portato una sua relazione davanti alla SEC e ha illustrato delle cose che riguardano le agenzie di rating che forse molti sospettavano e che però non erano mai venute alla luce in maniera così forte, così evidente, che svelano un certo livello di marcio, se così possiamo dire, all'interno di un pezzo delle agenzie di rating, almeno da quel lato dell'oceano, almeno al giudizio di molti osservatori. Infine ci occuperemo, oltre che della Popolare di Milano, come si diceva poco fa, della proposta pubblicata oggi dal Sole 24 Ore da Romano Prodi e l'economista Alberto Quadrio Curzio, una proposta di Eurobond. Anche qua ci sono degli elementi interessanti, ci sono delle criticità, ne parleremo proprio con uno dei due estensori, nella fattispecie non l'ex presidente del Consiglio ma l'economista Alberto Quadrio Curzio, per capire, per chiedergli anche qualche spiegazione, qualche delucidazione anche su queste criticità. Le notizie in breve di oggi. Naturalmente, se nei prossimi giorni avremo tempo, penso che quasi sicuramente lo faremo, dedicheremo uno spazio alle materie prime, perché ci apriamo sempre queste nostre notizie in breve e però continuiamo a riferirvi di quest'oro che cresce oggi a $1,913,5 l'oncia. Poi ha ritracciato sotto quota 1900, ma insomma ci siamo intorno ai 1900 dollari. Mentre il petrolio a New York ha aperto il rialzo, 85,6 dollari al barile, da segnalare, non ve lo diamo quasi mai, che invece il Brent, ossia il petrolio quotato a Londra, è decisamente più alto, quota 108,65 dollari al barile. Un po' di dati dagli Stati Uniti. Le vendite di case nuove in luglio sono scese dello 0,7%, quasi in linea con le previsioni che erano per un calo dello 0,6%. L'indice Fed di Richmond, che serve a monitorare l'attività manifatturiera nell'area del Maryland, della West Virginia, di Virginia, South Carolina e Distretto di Columbia, è crollato ad agosto a meno 10 dal meno 1 di luglio. Le stime erano per un calo a meno 5. Da segnalare anche dagli Stati Uniti, ma in realtà è una cosa che ci riguarda un po' più da vicino, le parole dell'ex presidente della Federal Reserve, Alan Greenspan. Euro is breaking down, l'eurozona è vicina al collasso, ha detto parlando al Merit Talk 2011 Innovation Nation Forum a Washington. Secondo Greenspan, la crisi del debito dell'eurozona sta avendo un forte impatto negativo anche sugli Stati Uniti. L'economia americana, ha aggiunto Greenspan, non è ricaduta in recessione, ma le probabilità stanno aumentando. Peraltro, riferendosi proprio a loro, Greenspan dice non è in una bolla speculativa, perché di fatto viene ormai considerato come una specie di divisa alternativa al dollaro. Per quanto riguarda gli spread, vi aggiorniamo quasi sempre sul differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani a 10 anni e i corrispettivi tedeschi. Lo spread tra BTP e Bund è stabile a 285 punti. E poi oggi c'è stato un collocamento da parte della Spagna, con rendimenti in calo per l'asta di titoli a 3-6 mesi effettuata dal Tesoro spagnolo. L'emissione di quasi 3 miliardi di euro ha registrato tassi dell'1,357% per il titolo a 3 mesi e del 2,187% per quello a 6 mesi, appunto con rendimenti in calo. Poi ci sono le questioni che riguardano la manovra. La CGIL, come vi abbiamo già riferito anche nei giornali radio, ha scelto la data del 6 settembre per lo sciopero generale contro la manovra economica varata dal governo. Sarà di 8 ore, con manifestazioni articolate a livello territoriale. E poi scenderemo più nel dettaglio su quelle che sono le proposte del Partito Democratico, che come sapete anche queste sono state illustrate oggi dal segretario del PD Pierluigi Bersani. Vi segnalo anche che le agenzie battono adesso l'opinione di Famiglia Cristiana sulla manovra, che dice sulla manovra, sulla famiglia, colpi da serial killer. Una buona notizia invece che riguarda l'Italia: Milano è sesta in Europa per numero di progetti di investimento dall'estero, con 53 iniziative avviate in un anno. I dati sono della Camera di Commercio di Milano su dati del 2010. La prima città europea è Londra, segue Parigi, Dublino, Madrid, Monaco di Baviera e poi appunto Milano. Si battono città come Amsterdam, Barcellona e anche Francoforte. Parliamo di un sorpasso storico. Nel secondo trimestre 2010, con il mercato cinese dei PC che supera quello americano sia nel numero di unità vendute, 18,5 milioni contro 17,7, che nel valore totale di mercato, 11,9 miliardi di dollari contro 11,7, lo riporta IDC. Un dato che non tiene conto del fenomeno dei tablet, ma che è sintomo di un trend ben delineato, ci spiega Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia. Il mercato dei PC cinese ha superato nel secondo trimestre di quest'anno quello americano, sia in volume che in valore. Siamo 18,4 milioni verso 18,2 milioni. Non tiene conto del fatto dei tablet, ossia degli iPad e similari, perché il mercato americano in questo momento è cannibalizzato dai tablet, appunto. Questo fenomeno è ancora un po' indietro nel mercato cinese. Comunque la Cina è destinata a superare l'America in tutti i mercati di beni durevoli e anche di consumo. Due anni fa lo superò abbondantemente nelle auto, con 18 milioni rispetto a 11. Ha già superato nell'acciaio, l'ha già superato nei mezzi da costruzione, nei materiali da costruzione, in tutti quelli che sono nei mercati durevoli. È già avvenuto, è avvenuto addirittura nella moda e nel lusso. Ancora dove non avviene il sorpasso è nei servizi bancari, servizi assicurativi, nel software, nel mercato della salute, nelle telecomunicazioni, nei media. Ancora l'America è molto avanti. Tranne un settore dei servizi, che è il gioco d'azzardo, dove Macao ha abbondantemente superato Las Vegas e l'ha doppiata. Però questo è un trend destinato a durare, perché i consumi americani sono in discesa, o comunque sono statici per via della famosa bolla, ma comunque sono destinati a comprimersi, mentre invece i consumi cinesi aumentano del 18% all'anno e gli investimenti del 25%. Quindi nulla da sorprendersi, è tutto secondo le tabelle di marcia previste. E veniamo al primo tema di questa giornata e parliamo di agenzie di rating. (349) 238 6666 per i vostri SMS. Ne parliamo perché questa mattina è arrivata la notizia che il presidente di Standard & Poor's, Devin Sharma, viene sostituito dall'amministratore delegato di Citibank, Douglas Peterson. Sharma, si legge nella nota ufficiale, lascerà alla fine dell'anno per, aperte virgolette, cogliere altre opportunità. È certo però che tra questa notizia e quella del 18 agosto, secondo la quale il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un'inchiesta appunto su Standard & Poor's per accertare se il colosso del rating abbia assegnato giudizi impropri a decine di titoli garantiti dai mutui negli anni precedenti alla crisi finanziaria, sebbene l'indagine sia partita prima che Standard & Poor's togliesse la AAA agli Stati Uniti, fa sospettare il mondo, un pezzo del mondo, ha un minimo di vendetta politica. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, l'aria che tira è di vendetta politica, Mario? Ma guarda, certo, gli ingredienti ci sono per costruire così un piccolo giallo. La realtà è che secondo me non c'è molta vendetta politica, c'è piuttosto una vendetta di piccoli azionisti importanti dentro McGraw-Hill che stanno premendo per una vendita della divisione Standard & Poor's, per una ridistribuzione degli asset societari. Ci sono dei precedenti, tra l'altro, perché McGraw-Hill, che controlla Standard & Poor's ed è una delle più vecchie e importanti case editrici americane, pubblicava per esempio Business Week, e da una delle più importanti case editrici di libri di testo, per esempio, ecco, quindi è una grossa realtà nel mondo dell'editoria americana, aveva già fatto una separazione del gruppo, della divisione Standard & Poor's, dal resto del gruppo nel 2010, e da quel che mi risulta fu allora che Sharma, nel momento in cui vide un po' le controllate posizioni diverse dal punto di vista del controllo, avvisò, informò il management a cui riportava, e in particolare il signor McGraw, perché il signor McGraw è un discendente dei fondatori della McGraw-Hill ed è tuttora lui il presidente amministratore delegato del gruppo McGraw-Hill che controlla Standard & Poor's, lo informò che avrebbe voluto cercare qualche sfida, diciamo così, più importante, perché poi Standard & Poor's è molto conosciuta, ma non è che da un punto di vista di valori e di impatto di giro d'affari sia, diciamo, l'equivalente di una grande banca americana, per esempio, ecco, ha un fortissimo profilo da un punto di vista dell'immagine, per cui probabilmente ci saranno anche dei retroscena che noi non conosciamo, ma la mia sensazione è che questa cosa fosse già in movimento da parecchio tempo, tanto è vero che ci sono stati gli interventi di due azionisti importanti di McGraw-Hill, due azionisti attivisti come si definiscono, i quali avevano fatto un investimento importante nella società con motivazioni ovviamente speculative, ebbene loro continuano a insistere, vogliono che la McGraw-Hill si spacchi in due, che Standard & Poor's sia quotata separatamente, Standard & Poor's tra l'altro è una delle divisioni che fa più profitti, e la notizia di oggi è che loro contrastavano un po' la nomina di Peterson di Citigroup, dicendo che forse non era il personaggio di livello adeguato. Ecco, Mario, secondo te la tensione che è cresciuta intorno a Standard & Poor's dopo questa decisione storica, abbiamo anche visto una serie di interviste dello stesso Sharma ad una serie di televisioni americane anche piuttosto dure con lui, insomma, nell'intervista, come sempre nel giornalismo americano, ma devo dire con una particolare verve, la pressione che è cresciuta intorno a Standard & Poor's può aver accelerato, secondo te, questi eventi societari in questa chiave? Potrebbe averli accelerati, e secondo me ci sono state delle pressioni politiche eccessive da Washington. Non è buon costume che diciamo la capitale o comunque il potere esecutivo eserciti delle pressioni così forti sul settore privato come abbiamo visto in quest'ultima occasione. La verità è che gli Stati Uniti meritavano il downgrade. Era un downgrade annunciato. Noi stessi tra l'altro Mario, voglio ricordare appunto che a questi microfoni per due volte tu ci hai detto, quando eravamo a ridosso dell'accordo sul tetto del debito, ci dicesti: guardate, io non escludo, anzi sono quasi certo che qualcuno toccherà il rating americano anche dopo l'accordo sul debito, fatto puntualmente avvenuto, insomma te ne rendiamo onore e merito. Infatti lo dissi, lo anticipai allora, proprio perché era chiaro che l'accordo sul debito prendeva una piega che non era quella che si aspettavano le agenzie del rating, non era quella che si aspettavano i mercati, e dunque sarebbe stato, direi, peggio se Standard & Poor's non avesse agito. Peraltro i mercati scontavano questo downgrade, e quando io ve ne parlai, appunto prima ancora che succedesse, prima ancora che ci fosse l'accordo sul debito, era semplicemente perché avevo colto voci molto informate di mercato che si preparavano a questo downgrade. Ecco, detto questo, come sappiamo il downgrade che hanno fatto ha avuto più così una bacchettata simbolica, perché poi il rendimento dei bond americani è addirittura diminuito, non è aumentato, e dunque è stato il compimento di un atto formale che secondo me era dovuto, perché in realtà i politici americani non sono riusciti a trovare quel compromesso che avrebbero dovuto trovare, non sono riusciti a dare quel messaggio forte ai mercati sulla loro determinazione a ridurre il disavanzo pubblico, ad attaccare quelle voci di spesa che sono ovviamente ormai insostenibili, e soprattutto ad acconsentire ad avere una riscrittura del codice fiscale per recuperare, perché di questo si parlava, recuperare su quelle inefficienze che c'erano sul fronte delle entrate del fisco americano. Dunque tutto questo che doveva succedere non è successo, e a quel punto Standard & Poor's avrebbe dovuto muoversi in quella direzione e lo ha fatto. Secondo me ci fa una figura peggiore Fitch, che invece dice che il debito americano è fantastico e così via, così via. Allora ti trattengo sul tema delle agenzie di rating, Mario, per due questioni. Una è quella che riguarda l'indagine che, come si diceva poco fa, è stata aperta su Standard & Poor's dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulla questione di titoli garantiti dai mutui, in particolare naturalmente i subprime. cosa che è avvenuta qualche giorno fa, il 18 di agosto, la notizia si è presa il 18 di agosto, mentre nel frattempo, in questi giorni, si sta diffondendo piano piano la vicenda di questo ex vicepresidente senior di Moody's, William J. Harrington, il quale in una testimonianza di fronte alla SEC, in realtà per tutt'altri argomenti, svela una serie di cose su come funzionano i meccanismi delle agenzie di rating, che forse molti avevano sospettato e altri invece, dei quali non si era mai trovato effettivo riscontro. Tra l'altro, se volete cercarvelo, probabilmente su internet lo trovate, si chiama William J. Harrington. Comunque, le agenzie riferiscono di volontà di far felice il cliente, analisti piantagrane minacciati o licenziati se non si adeguano, vicende di conflitti di interesse, insomma, potrebbe essere un bello scossone, Mario. Sì, è il problema di sempre ed è per questo che il Dipartimento della Giustizia ha aperto l'inchiesta su Standard & Poor's relativa alle valutazioni che l'agenzia diede sul subprime. Il problema della collusione, del conflitto di interessi, del fatto che per poter ottenere un voto, diciamo così, dall'agenzia per la valutazione del credito, l'azienda deve pagare. Quindi si deve iscrivere con questa agenzia, deve pagare una certa tassa, diciamo, di iscrizione, un costo di consulenza. A quel punto l'agenzia manda i suoi esperti ed esprime un giudizio sul livello del debito, con quelle complicate formule di voto, no? Dal triplo A, doppio A più, doppio A, B meno, fino al triplo C, fino al junk bond. E ciascuna di queste sfumature in questa unione di lettere rappresenta che cosa? Rappresenta un punto in più o in meno sul tasso di interesse che poi si va a contrattare sul mercato nel momento in cui un'azienda, per esempio, deve fare un'emissione obbligazionaria. Dunque c'è un meccanismo che in teoria dovrebbe essere abbastanza collaudato. In realtà che succede? Beh, nel momento in cui una banca d'affari deve collocare un debito, diciamo, di 500 milioni di dollari per una certa azienda, beh, è chiaro che se riescono a spuntare 30 punti base o 40 punti base in meno, ci sono dei fortissimi interessi, perché poi su un debito, per esempio, decennale, questo poi ha un effetto cumulativo straordinario. E dunque le pressioni venivano un po' da tutti, venivano dal cliente, che ovviamente protestava, venivano anche dalle banche d'affari, che magari minacciavano l'agenzia per la valutazione del credito di danneggiare alcuni degli altri clienti in altro modo. Quindi queste manovre dietro le quinte sono avvenute. Bisogna capire se fossero delle manovre che riguardavano dei casi isolati o se fosse un approccio sistemico. Ecco, per ciò che riguarda il subprime, sarà stata per ingenuità, sì, sarà stato per un forte errore di valutazione, però l'impressione è che le agenzie di valutazione del credito, valutando questi pacchetti in cui c'erano dentro dei bond molto, molto, diciamo, negativi, abbiano peccato forse di così. Un po' di indulgenza. Allora, ci raccomandate via SMS, citando Sant'Agostino, di tornare ai temi italiani. Lo faremo. Tenete presente che però su questa vicenda delle agenzie di rating, ed è questo il motivo per il quale trattiamo il tema, un sacco di gente ci ha perso un sacco di soldi, come ben sapete, come ben ricorderete. Grazie a Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Buonasera. Ha già attaccato, adesso andiamo con una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo e parliamo di mercati. Le 17:32 minuti, 10 secondi, è il momento delle borse. Ceo Condina, Radio Core Il Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a voi. E anche questa volta ce l'abbiamo fatta ad essere i peggiori d'Europa, eh? Sì, è una seduta un po' convulsa per la piazza milanese, era iniziata bene così come per i principali listini del vecchio continente, poi ci hanno affossato ancora una volta i finanziari, basta vedere scorrere il listino dei peggiori e insomma alla fine abbiamo chiuso sotto di più di un punto percentuale, -1,2% del FTSE MIB, questo mentre l'Europa invece ha visto Parigi e Francoforte mettere a segno comunque dei rialzi vicini al punto percentuale. Quindi ancora sotto pressione i finanziari, la Popolare di Milano lascia giù oggi un 4,89%, poi questo è un tema sul quale faremo un approfondimento tra un attimo con una collega del Sole 24 Ore che ci ha già raggiunto in studio. Tra l'altro il Banco Popolare giù del 4,19%, Mediobanca del 4,15%, Fondiaria Sai del 3,47%, Monte dei Paschi giù del 3,23%, Unicredit del 2,61%, UbiBanca del 2,18%. Continuano a chiederci gli ascoltatori: cioè, ma com'è che questa Fiat, che non è un finanziario e che insomma avrà i suoi problemi industriali, per carità di Dio, però alla fine avrà perso un 25% più o meno, vado a naso naturalmente, nelle ultime 4-5 sedute. Fiat ha perso molto, ma dobbiamo dire che stamattina aveva iniziato molto bene, era uno dei migliori titoli delle blue chip di Milano, poi quando una volta che insomma hanno cominciato a prendere piede i ribassi, diciamo che le vendite ancora una volta si sono concentrate anche sugli industriali e in particolare su Fiat. Evidentemente gli operatori, che forse secondo alcuni negli ultimi mesi erano stati particolarmente ottimisti sulle prospettive del titolo, anche alla luce di vendite che poi non erano così brillanti, e adesso forse sono eccessivamente pessimisti. Questo è il quadro per quanto riguarda Fiat, giù anche Telecom Italia dell'1,6%. Sì, Telecom Italia paga la notizia di oggi, una maxi cartella emessa dal fisco brasiliano, circa 550 milioni di euro contestati alla controllata TIM Brasil per gli anni dal 2006 al 2009. Poi solitamente insomma queste questioni si risolvono magari con transazioni di importi inferiori, però solo la prospettiva ha spaventato un po' gli operatori e ha portato Telecom Italia al ribasso, -1,6%. Naturalmente non ve l'abbiamo detto, ma Fiat è comunque tornata sotto i 4 euro a 3,95 euro, visto che ce lo chiedete. Bene, oggi tra i titoli positivi troviamo Parmalat, un più 2,39%. Ci sono motivi particolari, Ceo? Particolari, aveva perso parecchio terreno dopo l'esaurimento dell'OPA di Lactalis. Adesso oggi c'è stato questo rimbalzo con cui tuttavia gli operatori non riescono a dare una ragione ben precisa. Campari invece c'è una ragione precisa. JP Morgan, la banca d'affari, nelle ultime settimane aveva mantenuto il titolo fra le raccomandazioni a vendere, consigliava i propri i propri assistiti a alleggerire le posizioni su Campari. Invece oggi ha cambiato idea e ha consigliato di mantenere i titoli in portafoglio. Ricordiamo inoltre che Campari negli ultimi 6 mesi ha guadagnato il 14%, quindi uno dei titoli che ha dimostrato maggiore resistenza alle bufere di borsa degli ultimi mesi. Eni su dello 0,90%, poco da dire, c'è o no? È ancora l'effetto Libia. Sì, l'effetto Libia, secondo quanto dichiarato dal management della società negli ultimi giorni, l'estrazione dai pozzi libici potrebbe arrivare a garantire fino al 13% del fatturato. Basta questo dato per dire che la prospettiva di una ripresa in funzione dei pozzi favorisce il titolo. Tra gli energetici invece male a 2A. Sì, sul titolo continuano a pesare diverse incognite, in particolare quella legata al riassetto di Edison, -3,3%, pensate che oggi il titolo quota 0,89 euro e soltanto 3 anni fa, quando è nata A2A dalla fusione tra AM Milano e SM Brescia, il titolo è stato quotato in borsa a oltre 3 euro, quindi ha perso 3 volte il suo valore. Abbiamo parlato molto in apertura di agenzie di rating, di poco fa la notizia tra l'altro che Fitch ha deciso di tagliare il rating di ST Microelectronics a BBB+ da A-. Oggi peraltro il titolo in realtà chiuso in positivo, +0,33%, vedremo che cosa succederà domani. Grazie nel frattempo a Ceo Condina, di Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Un quadro finale di giornata, Atlantia che chiude con un guadagno dello 0,37, ST appunto dello 0,33, Saipem dello 0,25, Bulgari su dello 0,16, il resto sono tutti titoli in negativo, a partire dalla controllante di Fiat che cede lo 0,14%, Autogrill lo 0,24%, così come Buzzi Unicem, Finmeccanica lo 0,25%, Diasorin lo 0,28%, mezzo punto percentuale circa di calo per Luxottica, Ansaldo e nel Green Power, Mediaset giù dello 0,6%, così come Intesa San Paolo, Impregilo giù dello 0,7%, così come Enel, Pirelli di un punto percentuale, Mediolanum dell'1,16%, Terna dell'1,44%, Snamret e Gas dell'1,45%, e sostanzialmente gli altri titoli ve li abbiamo detti, fatta eccezione per l'Ottomatica che scende dell'1,77%, Generali dell'1,91%, Azimut dell'1,96%, e veniamo al titolo che è andato peggio oggi, ossia la Popolare di Milano. Vedo che intanto gli sms al 349-238-6666 arrivano sul tema di queste ore, che naturalmente resta sempre quello della manovra. Come sapete, ne parliamo ampiamente tutti i giorni, oggi non è che ce lo risparmiamo, lo tocchiamo però marginalmente, affrontiamo altri temi. Ci scrivete ancora il tema dell'evasione fiscale, tra l'altro, così come ieri. Veniamo alla Banca Popolare di Milano, saluto Monica D'Ascenzo del Sole 24 Ore. Monica, buonasera. Buonasera a te e agli ascoltatori. Allora, abbiamo detto l'andamento in borsa, meno 4,89%, sono circolate indiscrezioni di stampa che parlavano di un rinvio di un aumento di capitale. In realtà le vicende della Popolare di Milano nell'ultimo periodo sono state piuttosto complesse e forse sono anche eufemistico nel dirlo. Monica, ci dai qualche ragguaglio? La Popolare di Milano ormai è sotto i riflettori da un paio di mesi. Diverse le vicende, in questa bufera che c'è stata sui mercati, aveva retto meglio delle altre banche e forse questo l'ha un po' pagato adesso. L'aumento di capitale che dovrà arrivare in autunno è stato un po' l'amuleto che ha protetto BPM in queste ultime settimane, amuleto che sembra insomma vacillare in questo momento, perché pare che la Banca Popolare di Milano possa rinviare l'aumento di capitale che invece sarebbe previsto per metà settembre. Il consiglio di amministrazione, che si terrà giovedì, approverà la semestrale e dovrebbe esercitare la delega ricevuta dall'assemblea del 25 luglio scorso. A quel punto si farebbe il filing alla Consob e dopo una quindicina di giorni, avuto il via libera, si potrebbe andare all'aumento di capitale. Già previsto per il 13 settembre un nuovo consiglio di amministrazione che potrebbe fissare prezzo e entità dell'aumento, e così il 19 si arriverebbe sul mercato. Questi tempi previsti, ma potrebbero slittare, perché le indiscrezioni appunto indicano che il consorzio di garanzia, le banche che fanno parte del consorzio di garanzia, sarebbero un po' caute nel portare in questo momento sul mercato un aumento di capitale di dimensioni certo. Ma per banali questioni di mercato, perché si tratta di BPM? Ma sostanzialmente perché il mercato in questo momento non garantisce di poter assorbire un aumento di capitale che potrebbe arrivare a 1,2 miliardi, e ricordiamo che le banche del consorzio di garanzia dovrebbero sottoscrivere tutto l'inoptato. Quindi questo di questi tempi tutto sommato qualche preoccupazione c'è. Sì, poi in realtà la Banca Popolare di Milano ha confermato in tutta teoria, se non sbaglio proprio poco fa, i tempi dell'aumento di capitale. Naturalmente da questo lato staremo a vedere che cosa succederà. Aumento di capitale si diceva fino a 1,2 miliardi di euro, ma era necessario per questioni post stress test, Monica? No, in realtà era stato chiesto ancora prima, dopo l'ispezione della Banca d'Italia, quando c'erano stati appunto i risultati dell'ispezione, era apparso evidente che era necessario un aumento di capitale. Ricordiamo che poco prima dei risultati dell'ispezione il Consiglio di Amministrazione aveva bocciato un aumento di capitale da 600 milioni, poi si è dovuto invece trovare a approvare addirittura il doppio dell'ammontare. Tornando a Banca d'Italia, bisognerà vedere anche quali saranno i tempi suggeriti da Via Nazionale, perché ricordiamo che nell'ultimo discorso fatto da Draghi aveva menzionato l'aumento di capitale di BPM a novembre, quindi forse ci sono gli spazi per poterlo rimandare un po' più in là nel tempo. Vedremo che cosa succederà anche sulla Banca Popolare di Milano. Grazie nel frattempo a Monica D'Ascenzo del Sole 24 Ore. Buonasera Monica. Buonasera a voi. Noi passiamo a parlare finalmente, che ce lo chiedete tanto, di manovra e di crisi. Le novità di oggi, le avete sentite? Che cosa è successo? Che il decreto manovra con tutta calma, è arrivato al Senato. O meglio, è arrivato nelle commissioni. È arrivato nelle commissioni e la settimana prossima dovrebbe iniziare l'aula. Se non erro, e adesso ve la ritrovo, poco fa è arrivato il termine per gli emendamenti, lunedì 29 agosto alle 20, il termine per presentare gli emendamenti alla manovra in commissione bilancio. E poi appunto l'aula dalla settimana successiva. Nel frattempo oggi conferenza stampa del Partito Democratico per presentare quella che è stata definita la cosiddetta contromanovra, una serie di punti, istituzioni più snelle, taglio ai costi della politica, dismissione di immobili demaniali e frequenze TV, liberalizzazioni, politiche industriali, lotta all'evasione fiscale, imposta sui grandi valori immobiliari, reintroduzione del reato di falso in bilancio, interventi per l'efficienza della giustizia. Iniziamo ad ascoltare il leader del PD Pierluigi Bersani sul senso generale di questa idea di contromanovra. Tiene i saldi, tiene gli accordi Tremonti-Europa che noi non abbiamo condiviso ma che rispettiamo a questo punto e che ha tre caratteristiche fondamentali. Una riduzione drastica ed effettiva dei costi della pubblica amministrazione, un carico della manovra in ragione dell'equità, adesso dà una mano chi fin qui è rimasto al riparo, terzo, misure per dare un po' di stimolo all'economia, alla crescita, al lavoro, perché, anche questo è paradossale, questo tema è come fosse scomparso, ma l'autunno ce lo riconsegnerà. Sì le borse, sì gli spread, ma gli italiani stanno pensando al lavoro, ai redditi, a un'incertezza drammatica di prospettiva e bisogna assolutamente in questa manovra mettere qualcosa per dare un minimo di stimolo alle attività economiche. Sono le 17:46 minuti. Io saluto intanto il professor Alberto Quadrio Curzio, preside di Scienze Politiche all'Università Cattolica di Milano. Buonasera, professore. Buonasera. E che ha firmato insieme a Romano Prodi una proposta sugli Eurobond che viene pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, che trovate in edicola. Lo saluto, però prima di tutto abbiamo la viabilità. Poi ci sentiamo un altro paio di interventi di Pierluigi Bersani, tra cui uno esattamente sulla proposta del professor Prodi e del professor Quadrio Curzio, e poi parliamo col professore. E ancora sentiamo anche che cosa dice Pierluigi Bersani sui conti. Insomma, dice il governo su certe operazioni non ha fatto un'operazione di verità. Ascoltiamo. L'insieme di questa torta strati porta sul 2014 a 55 miliardi di, diciamo così, minor impatto sulla spesa pubblica. Stiamo parlando di un'entità che va oltre il pareggio di bilancio. 40 miliardi è la misura del pareggio di bilancio, non 55. Quindi, prima di discutere nelle commissioni, il governo venisse con un aggiornamento del suo documento economico di economia e finanza per dare conto di che cosa significhi questa previsione. Significa che non si ha fiducia nelle misure già adottate? Significa che le previsioni di crescita sono sovrastimate? Che cosa significa? Abbiamo bisogno di sapere quali sono le previsioni del governo sull'insieme della finanza pubblica e sull'insieme delle dinamiche di crescita del Paese. Infine ascoltiamo anche questi 25 secondi nei quali il segretario del Partito Democratico sposa la proposta Prodi Quadrio Curcio, della quale parleremo fra un attimo. Stamattina sul Sole c'è una proposta di Romano Prodi Quadrio Curcio che noi siamo pronti a sostenere, è sensata, va nella direzione di un'Europa che svolga il suo ruolo, che faccia il suo mestiere, finalmente. Un'Europa zavorrata dalla destra in questi anni. Bisogna riprendere la grande prospettiva europea. Eccolo qua il chiamato in causa, professor Quadrio Curcio. Le chiediamo innanzitutto di riassumerci senza, se possibile, perché, anche perché siamo in radio, le corpose premesse pure interessanti che troviamo sul Sole 24 Ore di oggi, di riassumerci qual è la vostra proposta. Ecco, come ha ben detto lei, è una proposta di due autori, Romano Prodi e il sottoscritto, e la nostra proposta è questa: poiché i paesi con basso debito, tra i quali Germania e Francia, ma soprattutto Germania, continuano a opporsi agli eurobond per il timore che si vadano poi ad assumere debiti di altri paesi, noi proponiamo di costituire un fondo finanziario europeo con una dotazione di capitale reale, e spiegherò poi cosa intendo per reale, di 1.000 miliardi. Ciascuno Stato parteciperebbe a questo capitale con il conferimento di beni reali e in particolare con le riserve auree ufficiali delle banche centrali. E qui l'Italia in Eurolandia è la seconda dopo la Germania, 109 milioni di once la Germania, quasi 80 milioni di once l'Italia, e per inciso l'Italia è il terzo paese al mondo per riserve auree ufficiali, e a complemento di questo conferimento altri titoli azionari misurati a valori effettivi, valori di bilancio e non a valori di borsa, che in questo momento sono assolutamente incredibili, fino a giungere alla quota di capitale dei 1.000 miliardi pari alla quota del PIL che il nostro paese ha in Eurolandia, che la Germania ha in Eurolandia, eccetera. Quindi noi daremmo capitali reali, non ci sarebbe rischio di addossarsi debiti altrui perché il fondo con un tal capitale potrebbe operare, ed emettere a nostro avviso un prestito obbligazionario a lungo termine ultradecennale di 3.000 miliardi. Questa è la base del nostro ragionamento. Dopodiché il collocamento di questo prestito a nostro avviso sarebbe relativamente agevole, basta pensare che i fondi sovrani sono stimati oggi come detentori di 4.500 miliardi di dollari circa, perché poi non tutti i fondi sovrani sono trasparenti e quindi probabilmente l'importo totale delle loro risorse finanziarie è superiore. I fondi sovrani vogliono uscire anche dai dollari, diversificare di più, ebbene l'Europa gli offre questo veicolo, questi Euro Union Bond, per raccogliere capitali. Una volta raccolti questi capitali vanno divisi in due parti, Una parte deve servire per rilevare titoli del debito pubblico nazionale e una parte per fare investimenti, crescita e occupazione. Questo è in linea di massima, sia pure con un certo numero di semplificazioni, il progetto che noi abbiamo elaborato. Ecco, professor Quadrio Curzio, voi ipotizzate un'emissione con durata decennale oltre al tasso del 3%, ma come lo ipotizzate questo tasso del 3%, guardi, professore? L'abbiamo ipotizzato guardando gli attuali tassi medi dei paesi meglio posizionati in Europa, che sui decennali sono addirittura sotto il 3%, per esempio i Bund tedeschi. Naturalmente si può dire, ma la Germania è un caso eccezionale, vero e non vero, perché il fondo finanziario europeo al quale noi ci riferiamo ha alla sua base non una garanzia, ma alla sua base dei capitali reali e quindi di per sé una leva di 3, una sottoscrizione di capitale reale per 1000 e una emissione di 3.000 è una emissione molto ben garantita. Oltretutto, se si conferiscono anche delle azioni, per esempio noi abbiamo fatto il caso di Enel, Eni, eccetera, bene, queste azioni rendono dei dividendi, quindi il fondo avrebbe una sua entrata di dividendi e potrebbe pagare gli interessi. Io direi che il 3% è un tasso del tutto ragionevole oggi, considerata anche che l'inflazione non è certamente alta, diversamente da quanto pensa la Banca Centrale Europea, che è andata persino a aumentare i tassi per controllare un'inflazione che non c'è. È la crescita che manca, non l'inflazione presente. Professore, quando lei dice e quando voi scrivete, lei Romano Prodi, scrivete che, e lei ci ha riferito, azioni valutate in termini reali e non a prezzi di mercato sviliti, ma non è molto chiaro, perché quello che dico è, se il mercato le valuta così in questo momento quelle azioni, è difficile valutarle in altro modo quando si conferiscono a questo fondo, no? Mi scusi. No, è vero fino a un certo punto, perché se lei fa una stima dei valori effettivi di un'azione, non è corrispondente necessariamente al valore di mercato. Le porto un esempio molto chiaro che è stato fatto 3 giorni fa sul Corriere della Sera. Un grande istituto finanziario ha oggi nella quotazione di borsa un valore inferiore a quello della sua quadreria a prezzi di stima ma anche di mercato, cosa assolutamente inconcepibile, perché un istituto finanziario, per quanto possa essere gravato da sofferenze o da crediti incagliati, ha pur sempre un capitale e un avviamento, quindi i prezzi di borsa di oggi non riflettono i valori reali dei titoli azionari in moltissimi casi, mentre questi valori reali possono benissimo essere stimati a valori di bilancio e, se necessario, anche con una particolare valutazione del contenuto dei singoli asset nei valori di bilancio. Non vorrei fare dei nomi specifici. No, è chiaro. Allora, è chiarissima la sua risposta, professore. Io ho un'ultima domanda e le chiedo di essere molto breve. Voi dite che con questa proposta si rende molto difficile la speculazione. Immagino per le dimensioni di questo fondo, e però non la si rende impossibile. E se entra sotto attacco, se la speculazione, cosiddetta speculazione, va all'attacco di questo fondo, poi che succede? Ma questo non lo so dire. Naturalmente bisogna anche capire che un fondo del genere, con le dimensioni che esso stesso ha, è un mercato così grande, così liquido, per essere aggredito ha bisogno di grandi masse di capitali. E la mia impressione è che molto spesso negli ultimi tempi la speculazione non abbia operato con grandissime masse di capitali. Quindi io penso che la cosa, d'altra parte le faccio un esempio, nel caso della Francia c'è stato un piccolo allargamento degli spread e poi gli spread si sono ristretti di nuovo. Non penso che il debito pubblico francese sia più robusto del debito pubblico che si potrebbe emettere con questo fondo e con gli Euro Union Bond, e forse neanche quello della Germania, perché ripeto, il capitale è un capitale reale, non è chiarissimo. Capitale di garanzie. È chiarissimo, professore. Guardi, io la devo interrompere, me ne dispiace perché siamo veramente in chiusura. Un ringraziamento a Mauro Del Corno in redazione, a Mauro De Angeli in regia. Un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.